Dove siete? Dove siete? Santo Paolo. Tutti. Tutti morti sono, è la ora. Come stai? Grazia. Bene, tutto a posto? Graziano. Graziano. Il carabiniere di Ardara. No, sto uscendo, già. Ho detto sono i carabinieri di Ardara. Sei sicuro che lo mi senti tu? No, stai uscendo! Già sto uscendo io. Sto uscendo dalla cosa, dalla cucina. Scappa! Stai uscendo malissimo, Antone! Tutto guerremmi! Esagerato, non è uno stazionale, mettiti in un punto buono, se no non mi senti, è logico, no? Ma sono sempre nello stesso posto. E allora come mai non mi intende, se? Strano. Ah, boh, non lo so, non ti copio bene, riprova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tutta strada, sono sempre nel solito posto. Oh, mi sembra strano questa storia. Niente da fare, tutto tratteggiato sei uscito. Tutto tratteggiato? Guardati il filo dell'antenna lì. Adesso mi guardo il filo della canna. A tratti ti sento, esci a spezzoni. Aspetta. Guarda che sei messo male con l'antenna lì. Da qui ti prendevo sempre benissimo. E adesso bene di te, guarda un po'. Graziano. Graziano, Graziano, Graziano. Ciucciù. Graziano, mi senti? Sta attento, lo chef, ci sei? Ciucciù. Oh, e beh. Graziano. Graziano, dove sei? Graziano, rispondimi.